Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ciao! Ti senti bene? Accomodati! Scusa se ti ho chiamato a quest'ora. Non fa niente. Ho bisogno di un clinic. Ok. Ok. Mi ha chiamato. Volevo sapere come stai. Bene. E tu come stai? Bene. La mia segretaria è in vacanza, un sacco di lavoro arretrato, un grosso caso a New York e bla bla bla. Io lo ascoltavo e pensavo, ah, l'ho dimenticato, l'ho proprio dimenticato, ma come ho fatto a pensare di essere innamorata di questo tizio? E poi lui mi faccia una novità. Lei lavora nel suo ufficio, è procuratore, si chiama Kimberly. La conosce da un mese, quindi dovrebbe essere una donna di passaggio, non dovrebbe essere quella da sposare. Ah, vieni qui, vieni qui. Non pensarci più. Adesso passa, vedrai. Sì, asciugati pure, tanto non mi è mai piaciuta. Adesso passa. Care amiche, tirare fuori i fazzoletti davanti a un uomo può avere i suoi effetti. Forse già lo sapete, ma una ricerca pubblicata qualche giorno fa sulla rivista Science ci tiene proprio a sottolinearlo, come dire, donna avvisata, donna salvata. Donna che piange non attrae l'uomo. È quanto emerge da uno studio condotto da alcuni esperti israeliani del Weizmann Institute di Rehovot. La ricerca pubblicata su Science sottolinea come il desiderio sessuale del partner si riduca di fronte a una donna in lacrime. Tre sono stati gli esperimenti che hanno contribuito a confermare questa teoria. Nel primo, gli studiosi hanno chiesto a 24 uomini di tenere sotto il naso, mentre osservavano alcune foto di ragazze avvenenti, un tampone imbevuto di lacrime e uno invece di soluzione salina. Hanno così scoperto che i soggetti che annusavano le lacrime reputavano i volti raffigurati meno attraenti rispetto agli altri. Stesso risultato nel corso del secondo studio. La misurazione del livello di testosterone di 50 volontari ha dimostrato che i livelli dell'ormone di chi aveva odorato le lacrime risultava inferiore. Infine, analizzando l'attività cerebrale di 16 uomini tramite la risonanza magnetica, si è osservato che l'attivazione delle zone cerebrali implicate nell'eccitazione sessuale, come l'ipotalamo, risultava inferiore nei soggetti che annusavano le lacrime femminili anziché la soluzione salina. Allora, però bisogna fare una considerazione. Se le lacrime femminili riducono il desiderio sessuale maschile, è anche vero che un bel pianto, a volte, dico a volte, è un efficace toccasana, il famoso pianto liberatorio. Ricerche dicono, e forse l'esperienza lo conferma, che a lasciare proprio andare liberamente, senza reticenze né pudori, le lacrime, ci fa sentire subito bene, i muscoli si distendono e soprattutto cala lo stress, fuori i fazzoletti dunque e fuori le emozioni e le ragioni che ci fanno piangere, ma anche le ragioni che ci fanno trattenere il pianto. Una puntata in cui avremo tanto da raccontarci, perché ci sono lacrime di gioia, di dolore, di orgoglio, di cordoglio, di felicità, di soddisfazione, lacrime di coccodrillo e, per chi fosse a corto di lacrime, anche lacrime artificiali. Da una lacrima sorriso ho capito molte cose, dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Sguardo ed un sorriso. Ma di che cosa sono fatte le lacrime? Di acqua? Beh, ma non solo. In linea con noi un grande esperto di lacrime vere, ma anche di lacrime artificiali, il professor Maurizio Rolando, associato di oftalmologia e direttore del Centro per la Ricerca Clinica e Sperimentale delle Malattie della Superficie Oculare all'Università di Genova. Buongiorno, professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Professore, l'acqua sì, è l'ingrediente direi fondamentale, ma immagino ci sia dell'altro in queste lacrime. Sì, ci sono, in realtà sì, è vero, ci sono tantissime sostanze fondamentali per la salute dell'occhio, nelle lacrime, proteine, zuccheri, grassi e così via, perché le lacrime sono il sangue della superficie dell'occhio, quindi sono qualche cosa che serve a regolare la salute, il ricambio delle cellule, e serve anche per la nostra visione, perché se non avessimo una lacrima regolare sulla superficie dell'occhio avremo delle difficoltà nella visione. Però... Ma nello stato specifico ci sono all'interno delle nostre lacrime anche dei sali, delle proteine che sono secrete o quindi raccolte dal sangue, dalla ghiandola lacrimale e sono praticamente concentrate nelle lacrime. Quindi è un po' un cocktail la lacrima. È un bel cocktail. E ci sono lacrime e lacrime. Così dice la scienza delle lacrime. Insomma, sembra che la lacrima di chi affetta la cipolla non sia uguale a quella versata per la presunta anima gemella. Professor Rolando. Assolutamente. E come mai questa differenza? C'è stato uno studio fatto credo all'inizio degli anni 80 in Minnesota, in cui un ricercatore ha raccolto quasi un centinaio di persone e gli ha fatto vedere un film triste. E poi Zach ha raccolto le lacrime. Mi è piaciuto quel Zach. E poi alle stesse persone ha indotto una lacrimazione con la solita cipolla. E poi è andato a vedere cosa contenevano queste lacrime. E quello che si è visto è che le lacrime emozionali, che sono una cosa caratteristica degli uomini, i cani non piangono, erano particolarmente ricche di alcune sostanze, in particolare di manganese, che adesso ci sarà qualcuno più esperto di me, ma il manganese sembra avere un'attività depressiva sull'organismo, quindi crea un po' di stato di depressione, e poi questo ormone adrenocorticotropo, che è l'ormone del nostro stress. Quindi con le lacrime laviamo via, allontaniamo da me dal nostro organismo queste sostanze possibilmente depressogene o stressogene. Magnifico, viva le lacrime. Quindi allora. Sarebbe un sistema per controllare il nostro umore. D'altra parte nel 1600 Shakespeare diceva proprio che dovrebbe lacrimare se no morirà. Professore, però si può piangere per amore, abbiamo visto che le lacrime hanno una composizione differente da quelle che scendono invece quando piangiamo per la cipolla, ma le lacrime scendono anche per motivi direi meno poetici. Il freddo ad esempio ci fa lacrimare, per noi donne, professore, è davvero un cruccio perché il trucco si scioglie, per cui si arriva no, in ufficio tutte con il mascara colante, quindi il freddo attiva. È il vento che è spesso associato al freddo, che crea una reazione a livello della superficie dell'occhio, per cui è proprio uno stimolo. Tutte le lacrime in realtà vengono prodotte a seconda di uno stimolo, nel senso che può essere cambiamento di temperatura, può essere la ventilazione, un fumo aggressivo, così via, perché è un sistema di difesa. Quindi il nostro organismo riceve questo stimolo extra e produce qualche cosa per compensare, e in effetti le lacrime formano una specie di cuscinetto che isola la superficie dell'occhio, e quindi anche in risposta al cambiamento di temperatura abbiamo una iperproduzione di lacrime che ahimè non riusciamo ad assorbire. Noi donne solitamente, lo sappiamo, piangiamo più degli uomini e questo è un dato di fatto, ma pensate che i ricercatori dell'Associazione Tedesca degli Oftalmologi hanno voluto proprio mettere nero su bianco, insomma misurare, fare come diceva il professor Rolando, Zach, no? E raccogliere le lacrime, andiamo. Donne battono uomini 4-1. Il gentil sesso piange in media 64 volte l'anno, circa il quadruplo rispetto al massimo di 17 volte dell'uomo. Lo scarto inizia nell'adolescenza. Fino all'età di 13 anni i due sessi versano la stessa quantità di lacrime, ma superata questa soglia, le donne cominciano a piangere, di più e più a lungo, con una media di 6 minuti rispetto ai 4 dell'uomo. E le differenze non finiscono qui. Il 65% delle donne piange a singhiozzo, contro il 6% degli uomini. Però proviamo a vedere anche l'altro lato della medaglia. Donne piagnone? Io non direi. Forse noi donne siamo capaci di utilizzare meglio questa forma di linguaggio. Sì, perché le lacrime dicono più di tante parole. Piangere è un modo salutare di esprimere le nostre emozioni. Patti, nell'SMS ti ho scritto tra 5 minuti davanti alla macchinetta del caffè, non tra un quarto d'ora. Sono 10 minuti che ti aspetto, non è possibile. Scusa Silvano, è che tutta la mattina che corro. È la prima volta che mi fermo, sono distrutta. Ma ti c'hai una faccia? Si vede tanto che sono stanca. Ma più che altro si vede che ti sei truccata male. Oh, senti Silvano, io ero venuta qua per passare la pausa con te, hai capito? Ma se mi devi trattare così? Oh, ma così come? Prima mi fai aspettare, poi hai anche il coraggio di alzare la voce? Patti, dai Patti, cos'è che ti è preso? Oh, la smetti? Ma le emozioni sono tante, diverse. Si può piangere anche per la gioia, per la felicità, per la commozione. Ci siamo! Sta uscendo! È sotto sopra, ma sta uscendo, esce! Oh, eccola qui! Oh, oh mio Dio, eccola qui! Oh, è stupenda! È bellissima! Oh, è minuscola, non è vero! Sta tranquilla, le stanno facendo un primo controllo. Oh, mi raccomando, fate molta attenzione. Ecco la sua bambina, è bellissima. Ciao tesoro. Oh, grazie per essere uscita. In tutta la mia vita non ho mai pensato di poter essere così fortunata da innamorarmi del mio miglior... del mio miglior... Continuo io. Ero convinto. Io credevo che importasse che cosa dire o dove l'avrei detto. Ma poi ho capito che l'unica cosa che conta è che tu mi rendi più felice di quanto avessi mai potuto immaginare. Monica... Puoi sposarmi? Certo. Ah, che bei pianti. Perché certi modi di sentire ci fanno piangere? Perché il pianto provoca proprio certe particolari sensazioni? Bentornata ad Alberto Pellai. Ciao Nicoletta, Alberto, buongiorno a tutti. Medico, ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Alberto. Allora, il pianto in realtà è proprio il nostro linguaggio primordiale, la prima comunicazione sociale che noi diamo di noi stessi al mondo è un pianto che connota il nostro ingresso nella vita. E in realtà è quello che l'evoluzione ci ha lasciato per far capire agli altri che noi abbiamo bisogno di protezione. Per cui tutte le volte che noi entriamo nel pianto, cioè piangiamo, o la gran parte delle volte, perché poi si può diventare manipolatori, come per tutte le emozioni anche di questo comportamento, noi abbiamo un segno visibile che gli altri possono proprio rilevare in modo oggettivo che abbiamo bisogno di essere protetti, abbiamo bisogno di aiuto, c'è bisogno che qualcuno ci venga incontro. Ecco perché la ricerca dice che il pianto disattiva il desiderio sessuale dell'uomo, è proprio una modalità con cui una donna fa entrare l'uomo in quelli che si chiamano i sistemi motivazionali, che sono stati studiati, teorizzati e studiati dal professor Liotti. Tu, attraverso il pianto, se hai di fianco un uomo, disattivi il suo sistema motivazionale sessuale e gli attivi invece quello dell'attaccamento, e quindi lo direzioni verso di te con una modalità tenera e protettiva e non invece desiderante sessuale. Lacrime dettate dalle emozioni, lacrime represse, lacrime che vorremmo versare ma che invece i nostri occhi non riescono a versare, forse perché siamo andati in riserva, e lì ci aiuterà il professor Maurizio Rolando. Alberto, però, se è vero, e noi abbiamo aperto con ricerche che dicono che le lacrime, no, ci liberano, hanno questo potere di ridurre anche lo stress, ridurre le tensioni, c'è invece chi dopo un pianto si sente ancora più a terra. E allora come si consola un'amica che piange? Ecco, direi che come cosa non si deve fare. Bravo. La cosa più importante, perché tutte le volte che noi vediamo una persona che sta male, che piange, il nostro tentativo è di rimediare molto velocemente il suo stato di disagio, magari facendo piccole prediche, magari dicendo non devi fare così, non ti devi sentire così, su non piangere. E invece il modello che salva proprio una persona che sta male è quello per cui una persona si entra dentro alla tua emozione. Quindi fondamentalmente direi il segreto è magari stare in silenzio, ma saper stare a fianco di chi sta piangendo, mentre la gran parte delle operazioni che noi facciamo di fronte a qualcuno che piange è sperare che smetta presto di fare quello che sta facendo. E io vorrei anche avere il contributo dei nostri ascoltatori, perché anche se ormai in TV il pianto è stato sdoganato, si vedono, no? C'è questa TV che propone sempre dai conduttori a storie strappalacrime, nella vita privata tante volte noi abbiamo paura di fare la figura del debole a versare la lacrimuccia, o anche proprio a versare la lacrimuccia per cose particolarmente piacevoli, no? Perché siamo troppo teneri. Alberto. Sì, io direi che il problema della televisione è che ha alzato talmente tanto la posta, cioè ci presenta una vita così diversa dalla vita reale, ci spinge a entrare nel nostro mondo emotivo, portando le emozioni sempre al massimo, che noi effettivamente abbiamo imparato a piangere per cose estreme. Spesso in TV vediamo, immediatamente ci identifichiamo con delle storie che vengono subito presentate con qualcuno che sta piangendo, cioè già all'ultimo stadio dell'emotività, e conseguentemente ci diseduchiamo invece a sentire le emozioni vere. Direi che è un po' la contrapposizione tra un mondo di emozioni artificiali che ci setta proprio, ci dà un equilibrio su cose molto lontane da noi, e un distanziamento dalle emozioni della quotidianità, che forse sono più fini, più sottili, meno intense, e che spesso disimpariamo a sentire. Fiorella, come altre ascoltatrici, come Maria e Giovanna, ci hanno risposto al mio invito. Che cosa provate quando il vostro partner piange? Seleziono il messaggio di Fiorella che ci scrive: le pochissime volte che ho visto piangere mio marito ho capito che sa soffrire. Quindi un'indicazione importante, ma andrei a Francesco dalla provincia di Venezia. Vediamo di che lacrime ci vuole parlare. Sì, buongiorno Francesco. A lei e ai suoi ospiti. Francesco, lei ogni tanto piange o fa il duro? No, io sono sensibile e non ho nessun problema a dire che quando bisogna piangere piango senza problemi. E si sente meglio dopo un pianto? Mi sento meglio, ma io avevo chiamato anche per un altro motivo. Al di là di non avere difficoltà, sì, quando ci sono le emozioni, sono abbastanza sensibile, sì che la lacrima scende. Però la lacrima scende anche quando non senza motivo. È quello, l'occhio lacrimante, eh? Io ho proprio l'occhio lacrimante, nel senso che non so se è un problema fisico, sì. O vive proprio una vita particolarmente emozionante, oppure il professor Rolando può darle un'indicazione, un suggerimento. Gli occhi che piangono più del dovuto, più del necessario, senza motivo, che occhi sono, professore? Ci possono essere sostanzialmente due ragioni. Uno è che ci sia un fenomeno infiammatorio, anche delle volte è subclinico, ma c'è uno stato di irritazione che stimola una iperlacrimazione. Sì. E che quindi la lacrima viene prodotta in quantità più alta della nostra capacità di eliminarla attraverso quei canalini che ci sono sul bordo palpebrale, che la scaricano poi nel naso. Sì. Altre volte, proprio a seguito di un'infiammazione o da una costruzione non perfetta di questi canalini, si ha un'ostruzione delle vie, che noi chiamiamo le vie di deflusso delle lacrime, e quindi le nostre lacrime dalla superficie dell'occhio non raggiungono il fondo del naso. Professore, che cosa si deve fare per capire se si cade in uno o nell'altro caso? C'è un esame rapidamente da fare, un'indicazione che lei ci può dare prima dei mercati? Che è abbastanza routinario, che è uno vedere, si colorano le lacrime e si vede se le lacrime colorate raggiungono il naso, quindi si mette una goccia di colorante vitale nelle lacrime e poi dopo qualche minuto si soffia il naso e si vede cosa succede. Sì. Oppure esiste la possibilità di fare un vero sondaggio, qualsiasi oculista oggi lo fa, si fa circolare forzatamente dell'acqua all'interno di questi canalini che devono allontanare le lacrime dalla superficie. Fa un po' malino? fa impressione. E intanto voglio salutare subito Ingrid, che ci chiama dalla provincia di Torino, ma poi ho un SOS che mi lancia Ilaria via SMS al 349-238-6666, a cui chiedo di intervenire. Il tuo SMS, Ilaria, è molto bello, il tema che mi proponi altrettanto, facci sentire la tua voce, perché nel leggere il tuo SMS in qualche modo lo rovinerei, lo impoverirei di emozioni. Ingrid, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Ma stavo ascoltando la vostra trasmissione, che reputo molto interessante. Sicuramente... Grazie, meno male, perché sennò mi faceva piangere. No, per carità. Ma io piango e mi faccio dei bei piantini, guardi. Io anche. Ah. Poi con le amiche o con le persone che, con cui stiamo bene, ogni tanto, guarda, ho proprio voglia di piangere. Piangi, dai, ah, fatti un bel pianto. Ingrid, allora. Allora, reputo che comunque il pianto sia uno dei tanti aspetti della vita quotidiana, della persona che vive la vita nella sua interezza. Quindi il pianto è sicuramente una valvola di sfogo, è un aspetto importantissimo da non sottovalutare, perché il pianto, a seconda delle diverse situazioni, dice tantissime cose che le parole non riuscirebbero comunque a trasfondere. Ritengo che il pianto sia comunque anche elemento di condivisione. Mi riferisco a situazioni in cui vi siano dei drammi, vi siano delle esasperazioni di carattere affettivo, di carattere sentimentale, di proprio anche elevate criticità, oppure il pianto come valvola di sfogo in situazioni di rabbia, in situazioni in cui magari si darebbe veramente un calcio a tutto, invece ci si limita a versare le lacrime. La lacrima di per sé è importante, è uno sfogo, è un elemento di comunicazione, è un elemento di condivisione. Quindi... Poi chi vi sta parlando è una persona che non può veder piangere un'altra persona, perché le va a ruota in seduta stante. Ecco, quella che si chiama empatia. Alberto. Quello che ci racconta Ingrid nel messaggio finale è proprio quello che potremmo chiamare il contagio emotivo, ed è una dote che qualifica in modo molto positivo le persone che sono in grado di esercitarla, cioè io sono capace di sentire quello che senti tu. Probabilmente, forse a uno che piange, vedere che immediatamente chi ti sta davanti si mette a piangere con te potrebbe non essere la cosa migliore, potrebbe anche essere utile. Tu puoi piangere con tranquillità di fronte a me, che so vedere le tue lacrime, ma non necessariamente entro, mi identifico così tanto che mi metto a piangere anch'io. Un altro aspetto importante che diceva Ingrid: noi dovremmo pensare alle nostre emozioni primarie proprio come alle note che si possono scrivere su un pentagramma. Sono tutte fondamentali per generare un'armonia e un equilibrio emotivo dentro di noi. Le persone che dicono io non piango mai hanno rinunciato a suonare una delle sette note, nelle emozioni primarie sono sei, una delle sei note che costruiscono il nostro pentagramma emotivo. Quindi averlo deciso a priori significa essere padroni di una musica che è monca di qualche cosa. Essere e benessere. Lacrime di gioia, di dolore, di felicità, di malinconia, lacrime d'amore, di coccodrillo, lacrime artificiali, e oggi parliamo di loro. Le emozioni che ci fanno piangere, emozioni positive, emozioni negative, pesanti, dolorose, ma anche parliamo delle situazioni in cui ci piacerebbe versare una lacrima perché il nostro occhio ci manda un SOS, ma quella lacrima non c'è. E a proposito di note e di musica, a volte proprio a scatenare, a sciogliere il nostro pianto, aiuta la musica. Everybody Hurts dei REM è in cima alla classifica delle canzoni che fanno piangere di più. Secondo il sondaggio della Performing Rights Society, la SIAE britannica, il singolo del 1993 ha raggiunto il primo posto della lista, seguito da Tears in Heaven di Eric Clapton e Alleluia di Leonard Cohen. La speciale classifica, che è stata realizzata tramite un sondaggio che ha coinvolto quasi 1800 persone, vede le prime 10 posizioni tutte occupate da brani anglofoni. Quando si dice il potere della musica, e in linea con noi abbiamo la dottoressa Luisa Lopez, neurologa e responsabile medico del centro Eugenio Litta di Grottaferrata e consulente scientifica del progetto Neuroscienze e Musica della Fondazione Mariani. Dottoressa Lopez, piange anche lei per questi brani? Beh, Tears in Heaven senz'altro, è un brano eccessivo probabilmente, ma veramente molto molto toccante. Credo che sia questo poi il fenomeno, no? Nel senso, la musica tocca delle corde che via via noi possiamo avere in quel momento estremamente sensibili, no? Voci autobiografiche, momenti salienti, particolari melodie, diciamo che le emozioni che vengono toccate per vari motivi. Diceva questo sondaggio, soprattutto sono anglofoni questi autori. Perché? Chissà, intanto forse il sondaggio va visto quante persone di lingua anglofona sono state identificate, quindi questo sarebbe l'ovvio, però è interessante pensare che anche gente che non parla l'inglese come prima lingua apprezza molto, no, queste musiche, queste canzoni, probabilmente conosce anche le biografie di questi autori e quindi c'è proprio anche un gusto, forse vorrei dire quasi voyeuristico, nel vedere un po' queste cose, però sicuramente la musica in sé all'interno di tocca, e per esempio Tears in Heaven ha delle caratteristiche particolari anche musicalmente, un chitarrista eccezionale, una voce molto bella, quindi c'erano tutti gli ingredienti per riuscire a sbloccare quelle emozioni che vorremmo, certo, tante volte far riaffiorare, ma che la quotidianità, il nostro carattere trattiene. Grazie dottoressa Lopez per essere stata con noi. Buona giornata. Grazie. E buona musica. Professor Rolando, ma allora le persone che vengono in ambulatorio da lei le dicono non riesco a piangere, provi a mettere un po' come sottofondo un po' di musica attivante, ci hai mai pensato? In realtà non ci ho mai pensato, ma potrebbe probabilmente essere utile. In realtà, proviamo? Che dice? Purtroppo le persone che mi dicono che non riescono a piangere è perché la ghiandola lacrimale ha difficoltà nel produrre le lacrime. Questo è in realtà il problema. Negli ultimi tempi si è anche messo in evidenza che sembra che possa esserci una mancanza di stimoli alla ghiandola lacrimale, che quindi ci possa essere un problema nervoso di stimoli alla ghiandola lacrimale, ma di solito si ritiene che sia un'infiammazione alla ghiandola delle lacrime che impedisce la produzione di lacrime. Senta, però stare tante ore davanti al computer si dice che riducendo quell'ammiccamento riduce anche, no, la produzione di queste lacrime, e così molti di noi ricorrono alle lacrime artificiali. Signora. Ecco, allora, ma queste benedette lacrime artificiali, ecco, io le vedo un po' come una crema idratante, no? Per il viso, e so che ciascuno di noi, almeno noi donne, sceglie la crema idratante in base alla propria pelle, se è secca, se è grassa, se ha problemi, inizia ad avere i segni del tempo. Invece per le lacrime artificiali tutte vanno bene, oppure bisogna fare un po' questa distinzione che io ho preso dalle creme, ma non so se il paragone è azzeccato. La distinzione è sicuramente utile. Non è così facile identificare la lacrima artificiale più appropriata e soprattutto non è facile identificarla da soli. Ma lei ci dice cosa fare, soprattutto cosa non fare? Allora, intanto, se è possibile, non userei, o cercherei di usare, se le devo mettere più di due volte al giorno, non userei le lacrime con il conservante. Non conservante, ok. Se è possibile, non conservate. quindi ci sono queste monodose oppure ci sono delle multidose che non contengono conservanti. Okay. Questo evita la tossicità da conservanti, perché se abbiamo bisogno di lacrime artificiali e produciamo meno lacrime, il che vuol dire che laviamo meno l'occhio. Sì. E quindi se laviamo meno l'occhio, il conservante rimane di più attaccato all'occhio. E questo non ci piace, quindi no, e quindi alle lacrime col conservante. Secondo conservante. Passo? Secondo passo, io sceglierei una lacrima abbastanza fluida, perché purtroppo la situazione è che bisogna avere sia il diavolo che l'acqua santa, ossia bisogna avere sia la protezione, quindi sì, una lacrima densa che protegga l'occhio, sì, e sia una lacrima che lavi via le sostanze tossiche. E purtroppo come costruttori di lacrime artificiali non è che siamo proprio bravissimi, perché la natura è molto più saggia e più complessa di quello che noi riusciamo, certo, a produrre. E quindi io so che se diluisco, se lavo, non sbaglio. Quindi non userei, come se non mi è consigliato, certo, per ragioni, una lacrima molto densa, quindi deve essere una lacrima artificiale, se possibile non conservata, e una lacrima abbastanza fluida che non rimanga a lungo sulla superficie dell'occhio. Questa è la prima scelta. Questa è la prima scelta. Intanto queste indicazioni, intanto io voglio ringraziare Ilaria, a cui ho detto ci chiami Ilaria, e Ilaria dalla provincia di Vicenza è in linea con noi. Ilaria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccoci, lei mi ha scritto proprio che questa puntata potrebbe risolvere un mio problema. Sì, eccoci qua, vediamo se riusciamo a risolverlo, anche con l'aiuto dei nostri ascoltatori che attivo subito, perché facciamo rete. Grazie. Ilaria, allora. E niente, io sono 20 anni che nel momento in cui mi metto a discutere con mio papà, sì, o comunque a imporre la mia posizione, a dire cosa ho deciso di fare di una certa scelta, sì, e niente, mi parte uno sfregolio dal naso, l'occhio mi si illumina, non riesco e parto piangendo, e così parto svantaggiato, perché certo, non ho credibilità e sembro una vittima che viene a piangere, invece insomma io allora forse ho ascoltato la storia della musica, forse devo mettere una valchiria sotto, un qualcosa, dai Ilaria, andiamo gladiatore, tipo dovrei mettere qualcosa di un questo potrebbe essere una buona cosa, ma affidiamoci al nostro psicoterapeuta, uno psicoterapeuta per amico, Alberto. Allora, Ilaria è intanto bravissima, perché proprio sentire la cavalcata delle valchirie prima di andare a discutere con un papà che ti fa piangere in automatico è già un buon metodo per cambiare proprio il tono emotivo con cui si entra nella conversazione. Il suo problema è che lei è entrata in un copione e l'ha lasciato fisso in tutti questi 20 anni, per cui il suo papà per lei recita un ruolo e lei recita il ruolo della debole che per farsi sentire deve piangere, per cui bisogna cambiare il copione. Prova a immaginare, cambiare papà non si può, no. Il lavoro sarebbe profondo, probabilmente c'è dentro qualcosa nella sua storia di vita col papà che la tiene in quella posizione, però provi proprio la prossima volta che va dal suo papà a fare due cose: ascolti la cavalcata delle valchirie, immagini il suo papà che mentre lei le parla, invece di essere quell'uomo grande e potente che magari la spaventa, non so, un papà intento a fare le parole crociate, a giocare con un giocattolo, oppure un papà con un bambolotto in braccio, e lei parli a quel papà lì. Essere e benessere. Chissà se il vostro egizio, magari romano oppure greco. Io so qual è il mio, a quale delle tre tipologie appartiene, ma non ve lo dico, ve lo dirò magari in chiusura, quando diventeremo un po' più intimi. Parliamo di piedi e lo parliamo con la nostra amica per la pelle, la dottoressa Riccarda Serri, presidente di Skineco. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, sì, parliamo di pescit, i piedi in milanese si chiamano pescit. Pescit, che è un bel nome, sì, un bel modo di... Sì. Senta, questi pescit in estate sono sempre lì in bella vista e per sì, fortuna a me piacciono molto i piedi. Sì, sì, e vanno curati perché i piedi sono importanti sia dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista della salute. Assolutamente. Sono la pompa cardiaca, la chiamano, perché aiutano a ributtare in su tutto il sangue che arriva giù. Ci raccontano tante cose, i nostri piedi ci portano, c'è una bellissima che magari poi chiediamo a Laura Vanossi di farcela sentire, una sorta di ode ai piedi di Henry De Luca, che poi in chiusura, se state bravi, come si dice, ve la facciamo ascoltare. Ma dottoressa Serri, sono importanti per la nostra salute, per la nostra postura, sono estremità, no? Che noi spesso dimentichiamo e che rispolveriamo, a cui dedichiamo attenzione solo in occasione dell'estate, e non tutti lo fanno. Sì, sono anche molto bistrattati secondo me oggi dalla moda, perché ci sono delle scarpe che fanno proprio particolarmente soffrire e far arrivare a delle vere e proprie deformità ai piedi, per cui è molto importante d'estate seguire le tre S: sole, sabbia, scalzi, camminare il più possibile, possibilmente nella sabbia, al sole e scalzi, e fa molto bene ai piedi. Certo, poi vanno anche curati particolarmente bene dal punto di vista dermatologico. Perché il piede la pelle del piede è molto delicata e poi così diversa in questo poco spazio, anche se ci sono dei piedoni. Penso ad esempio alla pelle del tallone, penso a quella sensibile, delicata tra le dita dei piedi, tra le dita, e penso anche a quella ad esempio del collo del piede. Cioè sembra che il piede, ancora forse più della mano, abbia tre tipologie o più di pelle differenti. Beh, il piede ci sostiene, per cui per forza la pianta del piede ha una pelle estremamente forte, certo, estremamente vigorosa. Ci sono i cultori del barefooting, di camminatori scalzi, che addirittura loro fanno l'opposto di quello che vogliono fare la maggior parte delle persone, cioè cercano di farsi crescere una suola cornea al posto della pianta del piede, proprio per rendere il piede ancora più resistente. Come una scarpetta, scarpetta naturale. Come una vera suola di pelle. Sì. Invece noi quello che vogliamo fare è cercare di ammorbidire questi spessimenti, di evitare la formazione per esempio di tagli e ragadi sul tallone così frequenti andando avanti con gli anni, e questo si può fare applicando tutte le sere delle creme podologiche a base di urea al 10-15% oppure a base di acido glicolico al 10-15%. Questo aiuta moltissimo a mantenere morbido il piede, a evitare l'eccessivo accumulo di spessore di strato corneo e a evitare anche quei traumatismi che fanno ulteriormente spessire il corneo. Che cosa vuol dire? Voglio dire con questo che molto spesso quando si fa la pedicure si tagliano via quegli spessimenti cornei. Il tagliarli via con la lametta porta come effetto boomerang, effetto rebound, a un aumento dello spessore successivo, per cui è meglio non tagliare via gli spessori, soprattutto del tallone, con la lametta, ma farli sciogliere con queste creme applicate ogni sera. Esistono addirittura dei trattamenti peeling da fare ai piedi che fanno le estetiste. Senta, però anche uno scrub al piede è bellissimo. Certamente, io lo faccio. È molto importante, si può fare da soli, si può fare dalla propria estetista, come è importantissimo il massaggio al piede. Il massaggio al piede, mantenere il piede giovane, tonico e vitale, è molto importante. Io vedo parecchie donne che magari si vogliono fare acido ialuronico nelle rughette, si curano il viso, si curano le mani e poi hanno dei piedi da vecchiette. Bene, non va bene così, proprio i piedi si possono massaggiare, nutrire e mantenere al meglio. Anche gli uomini, dovrebbero curarsi i piedi, perché soprattutto se stanno a piedi nudi, se portano sandali, si vedono dei piedi maschili che sono veramente bistrattati. Gli uomini anche di tagliare le unghie, mentre le unghie vanno tagliate bene col tronchesino almeno una volta alla settimana, bisogna cercare di evitare l'eccessivo crescita cornea anche nella zona intorno all'unghia, nel perionicchio, insomma, per cui se non si ha proprio voglia di andare dal podologo o dalla pedicure, si può fare fatevi aiutare, come si dice. Aiutare, esatto. Senta, chi fa uso frequente di calzature in gomme, quindi scarpe da ginnastica, può trovarsi a fare i conti con il cosiddetto piede d'atleta, che non è il colpo di classe, no? Che distingue un grande campione da tutti gli altri, però una infezione fastidiosa che colpisce in modo particolare, si accanisce con i piedi degli sportivi. Appaiono delle zone arrossate, punteggiate, ci sono queste pustole molto piccoline. Sì, sì, e soprattutto si inizia a manifestare fra il terzo e il quarto dito del piede, quindi fra il tridice, com'è che era il... Alluce, e questa è la nostra veramente il cavallo di battaglia di Laura Vanossi e mia, alluce, illice, trillice, pondulo e mellino. Allora, tra l'illice e il pondulo, tra il terzo e il quarto dito, tende a manifestarsi questo piede d'atleta perché i funghi amano, adorano e sguazzano l'ambiente umido, certo, il sudore, per cui ecco che l'atleta, non perché il fungo ami gli atleti, ma ama il sudore tipico degli atleti. Gli atleti mettono scarpe di gomma, scarpe chiuse per parecchie ore ed ecco che il fungo cresce vigoroso. Cosa bisogna fare? Un'azione preventiva, magari lavando i piedi e facendo docce con detergenti antimicotici, anche over the counter, cioè OTC, di quelli non da prescrizione medica che si trovano in commercio. Mercia. Oppure aggiungere qualche goccia di tea tree oil, che aiuta molto nel proprio detergente abituale. È molto utile l'applicazione di polveri assorbenti e di polveri antimicotiche nei piedi e nelle scarpe quando si suda. Nel momento in cui invece si manifesta il piede d'atleta è opportuno utilizzare proprio le creme o gli spray antimicotici, cioè specifici contro i funghi, e vanno applicati mattino e sera per almeno 4 settimane. Grazie, buona giornata. E per oggi è tutto, un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.